No, oggi noi abbiamo proclamato giornata di sciopero tutta la piana, non solo di Gioia Tauro, ma anche in tutte le altre aree rurali dove i braccianti sono ghettizzati e sfruttati, lavorando in condizioni di assoluta schiavitù arcaica. Quindi è uno sciopero che è stato indetto e che vede anche i lavoratori braccianti del Foggiano oggi tutti fermi con le braccia incrociate. Quello che chiediamo è che sia fatta piena luce sull'uccisione di Soumaila Sakho. Le autorità e anche il sindaco di Rosarno dicono di voler escludere la pista xenofoba, che non si tratta di un omicidio a sfondo razziale. Voi cosa ne pensate? Non spetta a loro, spetta ad altri organi competenti, non spetta a loro. Quello che noi sappiamo è che Soumaila è sempre stato nella lotta insieme a noi in prima fila. Seconda cosa, sappiamo che anche coloro i quali avevano tentato di far uscire quelle veline ieri parlando di furto, negli stessi veline emergeva che la struttura è una struttura abbandonata, quindi non reggeva questa tesi. Allora, senza affrettare quant'altro, lasciamo gli organi competenti svolgere il loro lavoro e noi facciamo la nostra. La nostra è la ricerca della verità, perché abbiamo un compagno, un attivista sindacale che è stato ucciso. Anche il fatto stesso di volere mettere il sospetto sul fatto che le vittime stessero rubando è un'impronta razzista. Qualcuno sta cercando di distrarre un po', manipolare la realtà. Non sappiamo con quale finalità, con quale obiettivo e quant'altro. Quello che noi sosteniamo e sosterremo è che chiediamo che sia fatta piena luce tutta la verità. Questo è quanto noi stiamo chiedendo. Soumaila e gli altri vivevano nella tendopoli di San Ferdinando, quindi insomma in situazioni precarie. Vivevano lì da anni e tutti lo sapevano.